140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @MartaCagnola. Ecco le protagoniste dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Terrazza Martini, Milano. Nemiche per la pelle. Due donne diverse unite all'improvviso dall'affido di un bambino. Luca Lucini dirige Claudia Gerini e Margherita Bui. Sono molto contenta di questo perché diciamo che è una commedia molto, molto spassosa, divertente, però dove i personaggi femminili sono principali e sono soprattutto guidano un po', no? Questa storia di maternità imposta, un po' così, maternità, mamme per così per disgrazia, tra virgolette, cioè succede appunto che questo nostro uomo in comune, cioè marito, primo marito di Lucia, interpretata da Margherita, e secondo marito di Fabiola, interpretata da me, scompare e quindi ci lascia una scomoda eredità. Questa secondo me è un filone nuovo perché noi siamo una coppia molto complementare, io e Margherita. Io mi sono trovata benissimo perché lei è un'attrice straordinaria, dai tempi comici fantastici, quindi è stata una bella partita a tennis fra me e lei, e esortiamo le sceneggiatrici e i sceneggiatori di scrivere di più per donne, perché l'universo femminile è un universo molto ricco. Due donne secondo me possono fare ridere tantissimo, soprattutto quando la commedia è costruita, spero, insomma, bene, perché i caratteri cioè ce ne sono tantissime di donne, i caratteri femminili sono così diversi, le situazioni delle donne sono, diciamo che sono un po' esaurite le storie maschili, dai, un pochino, ecco. E quindi usiamo gli uomini come spalla, come loro ci hanno usato per tutto questo periodo della nostra carriera. Quindi abbiamo due uomini fantastici, Paolo Calabresi e Giampaolo Morelli, che ci fanno da spalla, che sono stati bravissimi, fanno molto ridere e che si sono prestati, insomma, in questo ruolo di spalla. Vi ho convocato entrambe perché la questione riguarda tutte e due voi. Allora, lo ribadisco, io e questa non abbiamo nulla che ci unisce. Come si chiama sto coso? Paolo. Paolo? Paolo Junior. Ecco perché andava sempre in Cina. Papà, ti ha mai parlato di me? Mai. Mai. Papà non ti parlava mai di me? Solo di quell'altra. Tu devi condividere le tue cose con gli altri bambini. Non ti fa fregare dagli altri ragazzini, questa è roba tua. Scusami Paolino, ma che ti ha comprato il cellulare? Sì. Sì? Ma lei come pensa di educare questo bambino? Almeno io non me lo perdo per strada. Paolino, scusami ma non ti vedevo. Sto parlando a te. Ma guarda, il ragazzino con me sta una favola. Hamburger, patatine e televisione al plasma da 200 pollici. No. Altro che gallette di riso e Oliver Spiga là. Vivere. Tradizionalmente la commedia ride o sorride degli stereotipi, voi vi siete trovate a incarnare due stereotipi di donna molto diverse. Come avete giocato? Tu come hai giocato con Lucia? Ma sai, questo è un personaggio, vabbè, insomma, siccome insomma, il soggetto era mio, certo, abbiamo giocato molto questo insieme alle sceneggiatrici, proprio a creare due mondi, due universi diversi, e siccome i mondi femminili sono, si osservano, sono proprio come dei pianeti, e abbiamo cercato proprio di differenziarli il più possibile attraverso tutto, dal trucco, dai costumi, da quello che dicono, da come parlano, da come educano il bambino, e raccontare anche in questo però anche un po' le coppie, sai, dei divorziati che trattano i bambini sempre come se non esistessero, solo come merce, diciamo, per contrastare uno o l'altro, e questo è stato un po' anche il presupposto, però farlo fare a due donne, farlo fare perché è più forte, secondo me, il messaggio, per me. Guarda, il ragazzino con me sta una favola. Hamburger, patatine e televisione al plasma da 200 pollici. Altro che gallette di riso e Oliver Spiga, là. Chi che sta parlando di un capolavoro di livello mondiale, sa? Tutto lei capisce, intanto non hai nemmeno capito che non sa leggere l'alfabeto nostro. Ma come non sa leggere? È gravissimo, ma deve andare a scuola, immediatamente. Guarda, non cominci con le private perché io sono per il pubblico da sempre, eh? Ma no, Cocca, non ci può andare a scuola. Perché no? Perché siamo illegali, ma che te lo sei scordato? Se lo vedono, se lo portano via, ci denunciano pure. Comunque, noi vogliamo solo fare la volontà di Paolo. Senti, paga tu bella che mi devi dare ancora 40 euro di mutande. Accidenti, ma dico, ma... È tanto che non state più insieme, no? Che, no, siamo più insieme con... sono come una coppia di separati che si detesta e devono in qualche modo trovare un punto di incontro, un po' un equilibrio fra i due diverse personalità, gli opposti. Ed è interessante come invece poi un elemento come un bambino inizia insomma un pochino a scalfirle e devono tirar fuori dei muscoli che non sapevano di avere, cioè quindi l'accoglienza, la capacità di voler bene, di accogliere appunto e di proteggere, no, un bimbo. Quindi no, secondo me ecco, è anche un modo carino, ridendo, di parlare appunto di famiglie non biologiche. Nel senso che noi siamo in qualche modo una famiglia, anche se pazza, un po' allargata, però dove c'è amore, dove c'è comprensione, dove c'è protezione, c'è famiglia. Quindi anche insomma, è un modo per passare un messaggio anche dove non si toglie nulla alle famiglie canoniche, quelle più appunto le famiglie naturali, perché hanno tutto i diritti, sono ovviamente le famiglie per eccellenza, ma esistono anche altri tipi di famiglie a cui vanno dati dei diritti perché già esistono, ecco, senza togliere nulla agli altri. Famiglia come unione di affetti alla fine. Famiglia sì, come un'unione di affetti, come luogo dove c'è l'amore, dove c'è il rispetto, dove c'è la voglia di crescere insieme, perché queste tre persone alla fine crescono tutte e tre insieme. Ecco, quindi è una speranza anche questo film di raccontare, di dare un po' più di energia a una famiglia che mi sembra quella tradizionale piuttosto malmessa. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con Claudia Gerini e Margherita Bui. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.